sono con la macchina, mano in alto, questo con l'altro, che facevo. Sembrava che fosse qualcuno che già era conosciuto dalle forze dell'ordine, capito? Qualche conoscenza. Hanno preso un granchio, ma di chi si mangi? Perché anche loro vanno a pescare, capito? E la prendono i granchi. Mi hanno puntato quel faro che c'hanno, me l'hanno puntato nella macchina. E io stavo tranquillamente, stavo scendendo le carne da pesca, tutto qua. Ma dove sta andando? È a pescare, a quest'ora. E me se non va a quest'ora quelli prendono il posto. Ah, è vero. Mi fa vedere i documenti, questo e quell'altro, poi il collega ha detto, ma noi lo conosciamo questo qui. E a chi t'aveva visto travagli energivi? Non li travagliavi. L'altra volta mi hanno fermato dentro il porto Ottosi verso mezzanotte, cioè avevo lo stereo acceso. E per non addormentarmi quando me ne andavo accendevo lo stereo un po' a volume alto. Mi hanno fermato, innanzitutto mi abbassi lo stereo, mi ha detto. Anche tu rubi una manetta, vuol dire, è logico, no? Che disturba la quiete pubblica. Perché tu sei un disturbatore della quiete pubblica, avevano ragione. E poi sei anche cuoco, ma adesso glielo dico a quei finanzieri. E tu hai cambiato spacciatore. Io sì, io c'ho quello che mi vende la bamba qua. Quello niente. E incazzato nero è sempre. Quelli sono nigeriani, una razza di merda proprio, scusate la frase. Sono proprio i nigeriani quelli cattivi, i senegalesi sono bravi, ma i nigeriani. È una razza loffia, sono tutti delinquenti. Non è che l'hanno fatto a me, l'hanno fatto Adriano, l'hanno fatto. Era vicino al tabacchino, mi sembra che stava uscendo dal tabacchino e stava venendo verso casa sua. Si era avvicinato questo negro e gli ha detto se ne voleva di bamba. Ma c'è Adriano, è buon uomo, come te. Però mai gliel'hanno chiesto. E vai tu, drogato, cosa ti credi? Non ti ho visto sotto il ponte con un cacciavite infilato nel braccio, eh? Ma cosa vuoi? Lo dico a tutti, Luca Fugioni. Cos'hai? Sì, anche io adesso. Ciao lui. Ma com'era il cacciavite? A croce o a taglio? A croce era, per entrare più bene. No, tosse. Luca. Qui che c'è Carlo ancora. Carlo, che adesso vedi che sei sconvolto, io lo sapevo che sei cuocuomane. Ciao Carlo. Ciao Luca, via degli astronauti per me, andrà un po', via con il sole e me ne va la casa. Ciao Carlo, hai sentito? Ci arriva due soli, sì. Ripeti Luca che avevo abbassato, che stavo guidando inavvertitamente e ho toccato il volume. Ti ho detto, se mi ascolti lì, se ci arrivo. A voglia, fondo scala qua. Praticamente adesso sono alla rotatoria tra via degli astronauti e via Luna e Sole. Sto girando verso il bowling. Tu c'è un'antenna di lattarino wifi, vabbè, dai. Adesso vi sento tutti bene, forse chiari, tutti fondo scala qua da me. Kappa. Io lo credo, con tutti i fatti che c'ho oggi. Mica ti arrivo 9.30, fai da bravo Marco. A parte che siete già tutti 9.30, Natalina 9.30, fuori qua è a LED, Natalina 9.30, Luca non ne parliamo, 9.30, Gianni 9.30, Carlo 9.30. Spegnete tutto e ritirate, via io. Io? Il profeta, dopo tanto. Salgo a casa. E a Gianni, andiamo. Ciao Luca, ciao Franco. No, è Gianni il profeta, avanti. Buonasera a tutti. Ciao già, dopo tanto. Aspetta che mi sta chiamando mamma, riprendete. Ciao Gianni il profeta. Buonasera a tutta la ruota. Oh, via. Abbiamo spolverato il microfono, dai. Io ti stavo pensando, sono passato vicino a te, chissà Gianni perché non sta più entrando, l'unico che mi faceva divertire era lui, io stavo passando lì perché dovevo andare a fare una situazione lì al banco, ma sei vicino a te. Ah, tutto risolto? Tutto fatto. Oh, yeah. Ciao Luca, ciao. Gianni, Natalino e Marco che gli è venuto il sintomo, dai. Ciao Gianni, sto salendo a casa, ci sentiamo dopo. Gianni, Natalino, Marco e Luca. Ehi a Carlo, dai, buon corretti, ci sentiamo dopo. Ciao, tanti lo qui, verso le 8 attacco, dai. Ehi a K, buon proseguimento, tra un attimo ci sentiamo. Ehi, va bene, dai, io fra un attimo scendo giù a portare il cane e poi alle 8 riattacco. Capa capa, anda bene Meda. Ciao Carlo, buon rientro. Carlo sta rientrando dal trabacco, adesso se ne sale su e rientra da casa. Roia, è da giorni che non lo usavo, com'è il segnale? Tutto a posto? No? Qua è tutto ok. Con lo scala ovviamente. Bene meda, fa gli sgranchini di transistor, dai. Luca, ci sei ancora? Luca è cuocuomane, no? Non vedi, sconvolto è sempre. Cos'è? Non fa testo? Oh. Ancora Luca ci avvite? Allora, Luca sta sempre creando, facendo, non è mai, non rimane mai in ozio. Vi siete sovraccaricati? Luca ci avvite in mano, eh. E ogni tanto, parliamo tutti assieme. E quindi già, c'è un po' che non ti sentivo lo stesso. Io oggi prima ero molto orio, poi abbiamo un po' ingranato, tanto il sabato è lungo, il tempo non era bello, d'altronde con mamma così dove cacchio vado? Ci sono Pasquetta, Pasqua facciamo qualcosa forse, tempo permettendo, cappa. Anche qua la situazione più o meno è la stessa. Che volevo dire, adesso me ne sono inticcato, adesso, ecco, devo stare attento, non si sa mai che giro lo Smith era Natalino. Aspetta un attimo che vedo quanto mi sta arrivando, che ho visto un segnalone. Vabbè, siamo attaccati. Guarda, domenica scorsa sono andato a prendermi il tabacco al tabacchino che ha aperto la domenica mattina lì a... Corso 30, ho visto le robe appese, dai. Oh, viste le hai. Potevi suonare, cazzo, ci facevamo una chiacchierata almeno. Vabbè Gianni, no problem, 9:40 sta arrivando. Vabbè, non fa neanche a dirlo, dai. Sono fatto di corsa, ero anche in bicicletta, mi sono comprato una bella mountain bike di seconda mano, nuova ripacca, fiammante, una vera occasione, non potevo distrarmi troppo, sennò mi rabbigiani. Ah, e qui ne hanno già rubato una, ho dovuto mettere le telecamere addirittura, perché l'hanno rubata a un amico carissimo che la usava per andare a lavorare, poveraccio. Come Gianni, ammortizzato con quelle rigide? La bicicletta, niente, quindi bisogna stare con gli occhi aperti. Dicevo già, come di quelle ammortizzate o quelle rigide? No, è una Scott, una 27,5, è una bella bici, dai. Diciamo che a livello di mountain bike era un entry level, però di buona fattura, dai. Ha una bella forcella davanti, freni a disco davanti e dietro, avrà 21 rapporti, forse anche di più, non so. Era di una ragazza, l'ha usata una mattina, ha fatto 20 km, l'ha messa in terrazza, non l'ha più trattata, proprio nuova di pacca. E a chi se non si è allenato con Ghisi, ti ne cadani. Con un amico mio ha una bicicletta nuova, l'ha usata una volta e non ne ha più usato. Pure io. Sapete, dopo, io lo usavo da ragazzino, no. Dopo 30-35 anni, qualche anno fa, avevo provato a prendere una mountain bike per fare un po' di movimento. Beh, scioccato, non riuscivo a starci sopra, non riuscivo a pedalare, le gambe tre piegate. Guarda, un decadimento fisico, non indifferente, l'ho venduta, scioccato, l'ho rivenduta perché non riuscivo ad andarci, non mi ci trovo bene proprio, non mi ci trovo più. Lo so, chiaramente anche io non affranco, con i muscoli tutti arrugginiti, però si è tentato di fare commissione già c'è un nome dell'altro, bisogna essere a chilometri, guarda, adesso mi potevo permettere una cosa del genere, poi eventualmente più avanti magari qualcosa di servo assistito, però per adesso va bene, dai. Avete parlato in sé. Allora, qua è passato Natalino, avete ripreso assieme, ripeti già. Ho detto che per adesso va bene, anch'io ho i muscoli un po' arrugginiti, però giusto per muoversi in città, fare commissione, dai, spostarsi all'interno della City già va bene. Sì, è rientrato Carlo, adesso lo mando avanti. Sai cos'è bella? Una cosa intermedia, tipo la bici elettrica. Luca mi pare ha optato per una bici elettrica e a quanto ho capito si trova abbastanza bene, perché non ha le ruote piccole, ti aiuta, diciamo, quel tanto che basta, non è un monopattino, perché i monopattini hanno le ruote, sì, grandi, dicono loro, ma basta un piccolo fosso, ci finisci dentro e voli, a bocca a terra. Però anche il monopattino non mi sarebbe interessato a me, ma non fa, perché tanto stanno studiando di far adattare il casco, poi passeranno la targa, poi l'assicurazione, alla fine mi tengo il ciclomotore e faccio il motociclo che faccio prima. Ma motociclo, lo scooter, scusate, non è motociclo, è molto peggio. Vai Carlo. Un attimo, io sto chiudendo, corri qui per me, vai, ciao a tutti, buon proseguimento. Verso le 8 riattacco, se c'è qualcuno, sentiamo. Caffa, anda bene Meda. Va bene Gianni, buona uscita col cane. Ci sentiamo alle prossime, dai. Avanti Marco. Cappa, ciao Gianni, dai, buona passeggiata col cane e tutto il resto, dai. Ci sentiamo appena capita, dai. Vai Carlo. Ciao Gianni, buona passeggiata. Marco, dammi adesso un riscontro, come sto uscendo di segnale. Da adesso adesso? No, non cambia Carlo, è praticamente sempre inchiodato a fondo scala, potresti mettere anche a mezzo watt e saresti sempre a fondo scala, no, non cambiano. Poi questo è anche a LED, LCD diciamo, cristalli liquidi, dai, il display. Va bene, vuol dire che siamo troppo vicini. Bene meda, vuol dire che già sta andando bene questo, qua già vi sentono tutti forte e chiaro, vai Natalino. Aspetta, prova Carlo che ti attengo tutto. Adesso come mi senti? Sto uscendo col minimo, 2 watt. Allora, 9, tutto attenuato è 9, questo attenua tantissimo, 9, prova a fare la differenza. Adesso è con la differenza. Premi portati a muta. Allora, diciamo 9 più 10, cioè se fosse 9 più 5 non me ne accorgerei, perché qua o è 9 o 9 10, lì i due LED, capito? Però me lo scende, quindi bene o male lineare da un incremento grosso modo di quei valori là, dai, quindi ci siamo. Prendila per buona, dai. Gianni, riprendi. C'avevo una bassa in corso, mi avete cercato? No, abbiamo fatto una prova rapida con Carlo, sì, l'incremento c'è, K. Ma voi lo sentite il segnale di CW? Quella volume e propagazione mi stava facendo venire il mal di testa. E io peraltro uso sempre lo squelch e certe volte quando c'è propagazione lo alzo abbastanza, in modo da, cioè se voi non modulate il baracchino è zitto, capito? Ho capito, ce l'hanno a tutti. Ma quindi questo Jopix si difende ancora bene Marco? Già va, il mic cos'è? Il solito, come si chiamava quello? Affermativo, sempre il solito, io che c'ho da svariati mesi, mi ero pure dimenticato. Sì, funge, scritto. Un figurone Marco, un figurone. chi è rimasto? Carlo e Natalino, giusto? Sì, Gianni. Perché Gianni doppio rum è uscito a portare il cane. E Luca non è rientrato, Luca ci sei. Lei anche Luca ho già, anche lui è un po' impegnato in casa, dai, per una persona, siamo tutti nella stessa barca, almeno in tre, se non di più. Lo so, ci siamo visti l'altra mattina vicino a casa, che era con la sua bicicletta che stava facendo commissioni. A proposito di bicicletta, ce l'ho anch'io quella elettrica, è un trattore. Vabbè, io per quanto sono mandrone la vorrei direttamente col motore, cioè non pedalata assistita, mi devo assistere lei, capito? Ma questa già è quella che ho preso io, è per la pratica, diciamo, una bici da città, però una buona batteria, e ti posso dire che anche le salite più ripide le fai tranquillamente, capito? Più che altro per tenere qualche muscolo in allenamento, solo che da un po' che non la uso perché stava facendo freddo, eccetera. Adesso quando inizia la primavera, bene, nelle belle giornate mi rilascio pure quando me ne esco. Sì, infatti adesso che il tempo migliora appena appena, sale un po' la temperatura, è anche gradevole uscire. Natalino, ci sei, puoi riprendere, io fra poco faccio un caffè decaffeinato e così la serata è fatta. Sì, sto mangiando, mi stavo ascoltando, ma sto mangiando, no problem. Allora, come si dice, non si dice buon appetito, si dice di traverso, sempre bonariamente naturalmente. Già l'avrà capito Natalino, già siamo tutti buoni qua, qualche mattina che facciamo ogni tanto, però già va bene così, non si esagera mai, e quando si fanno vuol dire che si conosce l'altra parte, non credo che sia un problema. Benemera, Gianni, cosa mi racconti di bello? Niente di particolare. Niente di particolare, è un po' di entusiasmante, dai, più o meno la stessa cosa. Marco già lo sa, ha fatto un riferimento pochi secondi fa, quindi siamo qua con le nostre responsabilità e dobbiamo tenere d'occhio qualche, insomma, dobbiamo stare qua, dai, a vigilare. Vi capisco, io ci sono passato prima di voi e attualmente ne ho anche una io così di rogna, indirettamente, ma mia moglie è coinvolta e tutti i giorni sta viaggiando all'ospedale di Ottieri, perché da lì non la possono muovere, e quindi anche la mattina va a lavorare e la sera sta andando tutti i giorni a trovare la mamma, e ne ha 92, per cui va, insomma, tenuta conto un pochettino. Mamma mia, oi. Ah, volevo dire un'altra cosa, per passare di palo in frasca, per Marco, ma il KPO l'hai posteggiato? Sì, da quando l'ho comprato, anzi ti dirò di più, il KPO l'avevo testato, poi l'avevo messo in un cassetto, con la batteria bella nuova, carica, Energizer, lo prendo dopo qualche mese, tutto a scariche, non usciva il radio, porca miseria, praticamente era un leggero strato di ossido sullo slider dell'amplificazione. Credo, no, ho detto, ho sbagliato, già, volevo dire, non sullo slider, credevo sullo slider, sul PTT, PTT tutto infognato di non so cosa, perché era all'asciutto, al chiuso, in un cassetto, ho spruzzato il CRC, quello Dreigot, quello secco, che evapora all'istante, no, disossida e evapora all'istante, è tornato come nuovo, però per dire, quello per lasciare la roba ferma si inchioda sempre. Anche io l'ho comprato da Fusaro qualche mese fa, quello spray, cos'è, una bombetta grigia Mercedes, dai, uno spray per roba elettronica, per contatti, slider, switch e roba varia, 8 euro e spicciole mi pare, no, già funziona, l'ho preso per il mixer audio, soprattutto per i feeder, capito, perché ce n'erano un paio che ogni tanto facevano qualche rumorino strano, devo dire che funziona. Sì, proprio quello, disossidante, secco, per connettori e slider, tuner Bray Drigot, sì, quello color metallo e la scritta verde, un pochino di bianco anche se c'è un simboletto, un logo da. È molto bello, perché anche se non stai attento, per esempio dopo un periodo, non avendo sotto mano di meglio, usavo il CRC Marino, che però per i contatti elettronici è olio quello, non va bene. Infatti poi gliel'avevamo detto e vabbè, era solo perché era stato costretto a usare roba che aveva in casa in fretta, capito? Ehi, ehi, no, funziona, funziona, va benissimo, avanti Carlo. Gianni, come ti sto arrivando qua, usando un'altra radio diversa dalla solita a casa, niente, già mi trovo bene, CRT SS 9009. Adesso non ho gli occhiali, però già la radio è buona, anche se ha questo effetto San Pietro. Ma quello già si può levare, sì, all'eco inserito. Anch'io ce l'ho, aspetta, si sente ancora, aspetta, prova, appena appena. E c'hai un pre-innesco, appena appena. E avevo acceso l'altro baracchino, adesso l'ho spento e è così, dai. Bene, bene. C'era un bel po' di propagazione, anche troppa prima, anche a Bulutu, gente che faceva gargarismi qua sul canale, poi è quello che fa sempre, ola, ola, ed è propagazione. E ogni tanto arrivano questa ondata di Yankee, anche qua sulla radio, un po' su diversi canali, insomma, adesso vabbè di meno, però tipo un paio di giorni fa erano fortissimi. Cacchio, sull'11 mio, sul 6, ma poi sento come modula, si sente che gente di cultura. È vero, io invece prima uscendo dall'aeroporto stavo cercando nei canali qualche modulazione, si sentivano sul 21 questi due parlando, mi arrivava il segnale fondo scala, si sentivano benissimo, benissimo, e stavano parlando credo in turco, in qualche lingua del genere, perché erano, non si capiva niente, ma si sentivano di un bene, li ho sentiti sino praticamente alla rotatoria dei due mari, si sentivano benissimo, poi di colpo non si sentivano più. Ma che da propagazione, sì, ma c'hanno una parlata, è come il 45 un po', cioè li sentivo questa specie di tela e poi finisco sempre questo con quella parlata gli inchi proprio. Esatto, questi erano penso o arabi o turchi, mi immagino, perché dalle diciamo consonanti aspirate eccetera era quella lingua là. Ho capito, ma non è che per caso erano in FM, perché sul 21 solitamente erano delle stazioni piuttosto forti con una lingua che sembra araba o simile, non è turco, è proprio arabo. Sì, discretamente forti anche. Vai Gianni. Mi sto rollando una sigaretta. C'è del manche, dai. Sì Marco, ero in FM, perché in AM avevo fatto il giretto, non c'era nessuno, poi sono passato in FM, ma arrivavano a bomba proprio e sembravano dietro l'angolo. Ho provato a chiamare ma niente, c'erano altri segnali sotto, un sacco di propagazione, chiasso, e quindi ho detto in mezzo lato, poi il movimento in macchina, figurati. E niente, e poi sono passato in AM e sono andato sul 10, insomma, ho sentito voi e sono arrivato sino a Sassari. C'era poco, sto sentendo poco movimento comunque in radio, anche ieri credo, vabbè io non sono sempre presente in questa stanza, però meno male il baracchino è acceso con un volume minimo, ma non poca roba, dai, non... perché il baracchino ce l'hanno in tanti a Sassari, però entrano una volta di 6 mesi così a salutare, poi non rientrano più, peccato. Tu quando l'hai conosciuto la CB, la 27 Carlo, più o meno? Guarda, io le prime esperienze le ho fatte quando ero ragazzino, a 18 anni praticamente avevo fatto il mio primo lavoro, mi avevano preso stagionale al posto d'ascolto al servizio antincendio, capito? E quindi da lì è nato tutto, perché avevo la radio, parlavo con le vedette, capito? E quindi ho iniziato. entusiasto a sentire, e poi alla fine mi ero preso un CD, ma io da ragazzino abitavo a Monorva e avevo un terrazzo su due piani, la parte scoperta era 5 metri per 5 e avevo preso lì un dipolo sulla la 27 e arrivavo diciamo da tutte le parti. Io tutte le notti da Monorva collegavo Badesi, un amico di Badesi, ci parlavo tranquillamente, collegavo anche Sassari, infatti io con Giulio ci avevo parlato diverse volte, ma soprattutto sentivo la zona di Olbia, Ozieri, Mores, Itireddu, tutta quella zona lì. Arrivavo anche sino a volte a Macomer, capito, oltre a Macomer ho fatto Bosa, Alghero, spaziavo su su un sacco di zone col dipolo. Avevo anche una mantova e altre antenne. Poi mi ero dovuto trasferire, avevo mollato tutto, però quando ce l'hai la passione, qualcosa l'ho tenuta sempre, tipo scanner per fare il radioascolto, in macchina, e poi alla fine ho detto quasi mi prendo il CD e ho visto che a Sassari qualcuno entrava ancora su 10 e sono ritornato dopo tanti anni, ma di radio già ne ho avuto di occasione di conoscerla in passato e che poi avevo mollato tutto, capito? No, ho sentito un segnale basso, ma non so se è propagazione o se stanno chiamando noi, adesso proviamo. Io ero entrato lo stesso tredicenne, proprio in 27, con dei portatili, nell'84. Ti rendi conto che all'epoca non esistevano cellulari, computer, internet, cioè non come adesso, non c'era nulla. E praticamente in 27 a Sassari c'era mezza Sassari, era una cosa folle. Certe volte faticavi a trovare un canale libero oppure ti dovevi distanziare di canale per non prendere splatter e battimento dalle stazioni più forti, una cosa allucinante. Sì, lo so com'era Sassari, perché anche io molte volte se venivo a Sassari che avevo mia nonna e qualche volta mi portavo il portatile e qualche volta sono entrato un attimino giusto per chiedere un controllo, però non è che mi potevo trattenere più di tanto eccetera col portatile, non è che arrivassi chissà dove, però sentivo che c'era un sacco di gente qua a Sassari, però io ti sto parlando 40 anni fa. Negli anni 80 ce n'erano tanti di persone che usavano la 27 proprio perché non c'erano cellulari, per quel tempo lì diciamo la radio chi la usava era una soddisfazione anche a volte perché riuscivi a comunicare a gratis come si dice e arrivavi anche abbastanza lontano, capito? Io di collegamenti a lunga distanza ne ho fatto, avevo una scatola piena di cartoline, di X che collegavo i Pirenei, la Francia, il sud Italia, Punta Raisi, Taranto, ma poi anche oltre, sono arrivati in Olanda, Germania, insomma l'Europa, Inghilterra, Scozia, qualche collegamento l'ho fatto anche da qua, capito, in banda laterale, ogni tanto già mi collego, ho parlato col Sud America, Brasile, da qua, la Thailandia, sempre con qualche aiuto in banda laterale, però già ti diverti ogni tanto, dai. Riprendi pure Marco. Sì, quando la propagazione è buona fai il giro del mondo. Poi con qualche watt in più è meglio ancora perché ho notato che c'è una netta differenza da avere, che so, 12 watt delle in banda laterale del 3009 a averne un centinaio con l'aiutino, no? E cambia parecchio, poi sapevi la regola, no? Che per aumentare di un Santiago devi quadruplicare la potenza, quindi un vantaggio c'è, ma anche a livello proprio di come rispondono, quando sei liscio rispondono in pochi, poi dipende anche dalla zona, però quando sei attaccato diciamo invoglia l'interlocutore a rispondere, ecco. Vediamo se Gianni è entrato, se vuole entrare qualcuno. Uno su 10, avanti. Gianni sta fumando, lasciamolo fumare, magari fuma alla finestra al terrazzino per non fare odore di fumo in casa. Esatto, magari è uscito fuori. Sì, hai detto bene prima quando dicevi che a volte entra e non c'è nessuno. Io per esempio stamattina un attimo sono entrato e ho sentito Natalino e una decina di minuti abbiamo chiacchierato, poi che mi dovevo preparare, dovevo uscire alle 11 e quindi non potevo stare più di tanto. Io a volte ancora lavoro, quindi il tempo da dedicare alla radio è poco, però quando ho un attimo libero volentieri accendo e quattro chiacchiere le faccio sempre, tanto rimani massimo una mezz'oretta, un'oretta, poi magari insomma può anche bastare giornalmente, se no poi alla fine si stufa pure. Sì, non capisco chi entra ogni tanto a salutare, in effetti conta poco, cioè a volte io sono a casa col computer e lascio acceso, non entra nessuno, faccio due colpi di portante, faccio una chiamata, ma se non mi rispondono bene, se no rimango col computer e a volte magari dopo un'ora senti qualcuno e magari una chiacchieratina ci esce sempre. Non siamo rimasti in tanti però, siamo sempre i soliti e diciamo saranno una trentina di persone che hanno la radio, penso, e per la 27, e mi confermerai anche tu questo. Certo, magari non li ho proprio contato, perché io poi non me ne ricordo, c'è tanta gente che io conosco non appena, che magari entrava 40 anni fa, entra una volta all'anno per salutare, roba del genere. E una volta, appunto, non esistendo le chat e internet, c'erano solo i telefoni di casa, quindi la cosa più a basso costo per comunicare, basso tra virgolette, perché un omologato già se lo facevano pagare all'epoca comunque, tipo l'FM500S a Misero costava 200.000 lire dell'84-85 e caspita, non erano 200.000 lire del 2000, dai, diciamo, avevano più valore. Poi vabbè, trantenne tutto e insomma, chi aveva la ragazza e parlava con la ragazza a distanza, chi le griffettine, noi ce ne stavamo sul canale uno sotto con qualche amicizia, conoscenti, poi ero molto piccolo, non è che fossi tanto spigliato da entrare nei canali con la gente grande, non più di tanto, ecco, anche lì rimanevo più in ascolto. Vediamo se Natalino ha finito di strafogarsi. Natalino, ci sei? Sì signore, mi ho preso anche il caffè. Infatti, buona idea. Come dicevo prima, mi sa che adesso un decaffeinato me lo faccio. Tanto in capsule si fa in fretta lì. Non devi pulire niente, è perfetta quella macchinetta. Metti la capsula, fai il caffè, la butti. Marco, dimmi. Ciao, fatto voce del radio, sto sì, a posto. È un po' un po' così, un po' cupastra, un po' come dire, è nata lì, come dire. Cupa è strappata. Non possiamo continuare. Guarda adesso. Fa un passaggio più lungo, Luca. Forse avevo inserito qualcosa qua. Eppure è qua disinserito. Perché così inserito si cade, dovrebbe essere peggio. No, va bene, così va bene, lascia così. Perché mi hai chiesto quella cosa di là, Luca? Non mi hai risposto, ho detto di sì. Mi hai detto che è stata da un sacco di tempo. Per vedere se l'avevi fatta, appunto. Buonasera a tutti, ma già sto in ascolto, dai. Per vedere se l'avevi fatta e non ti hanno mai chiamato, mi hai detto. Oh! Se non mi ricavo io lo travaglio, Nisba, non mi hanno mai chiamato, no, da lì. Sai che da quando c'è l'invalidità così me l'hai fatta, perché prima non la potevi fare. Io ce l'ho da tanto l'invalidità, prima ce l'avevo al 67 e adesso ce l'ho al 75, però non mi hanno mai chiamato e sono registrato con l'ultima invalidità che ho, da tanto però. Dopo di nuovo per personale, riprendete, scusate Marco, avanti. Ci mancherebbe lui, quando vuoi. quando voi entra, anzi tu entri abbastanza poco, ma tu sei lo stesso come Luca, sempre l'altro Luca, inventando, facendo, saldando, e ogni tanto mi mandi il resoconto, sempre all'opera Luca, anche lui non si stanca mai, c'hai sempre piuttosto quel, come si chiama, quel riscaldatore a gasolio, funziona sempre. Sì, quelli sono fatti per i camper, però funzionano bene anche dove li metti. Sì, sì, quello lì. Quello è un'idea carina, è che io qua non voglio stare a, che ne so, per lo scarico un po' mi scoccia. Se no era una cosa carina da provare in casa, per quanto noi, vabbè, siamo un po' disabituati a avere caldo, troppo caldo in casa. Anzi ti dirò di più, quando andavo a casa di amici che avevano i termosifoni a manetta, io soffrivo, mi dovevo togliere tutto lo stare in maglietta o camicia, quello che era in estate, ma in inverno scusa, mi dovevo denudare, cacchio, non sono abituato al calore e lo soffro parecchio, infatti quest'estate penso che morirò, speriamo. Riprendi Carlo, poi rilancia se è rientrato Gianni il profeta. Ciao Luca, niente, io adesso ne approfitto perché sono ancora in divisa, come sono rientrato, vado a mettermi comodo e magari tra un po' di minuti già sono qua, rimango in ascolto, comunque datemi 5 minuti, 10 minuti, mi rifocillo e sono qua in ascolto. Riprendi pure Natalino. Cappala, mettiti comodo. Allora, come sto? Già ci sono anch'io in ascolto qua. E alla fine siamo tutti in ascolto, io vado a farmi il caffè, quindi Natalino in ascolto, Carlo in ascolto, io in ascolto, Luca in ascolto, l'altro Luca in ascolto, un canale di ascoltatori. Ascoltoni. Sì, in realtà sì, per la 27 si dice così, ascoltoni, orecchie di porco, orecchie pelose, eccetera. Vai a farti il caffè Marco, ci sentiamo tra un po'. E come sono rientrato? Un attimo che Gianni, che c'è Carlo che è andato a mettersi comodo, Gianni è andato a portare il cane e Marco si sta facendo un caffè, io me l'ho già preso alla faccia di chi non vuole, avanti Gianni. Ecco, e niente dai, io ho lo stesso un altro paio di passaggi e... mi preparo e tra un poco esco a prendermi una boccata d'aria, mi faccio due pedalate, così sgranchisco un po' le gambe e niente. Tu pure dai la benedizione e te ne vai. Ehi vabbè, l'entusiasmo non è che sia così alle stelle, per cui non può cagare a venire Natale, quindi no. Altri pensieri in testa, altre cose, quindi trascurato, dai. Ho capito. Anda bene Nera. Eppure ti ho pensato veramente stamattina, quando sono passato lì proprio, no? Che dovevo andare lì, alle poste. Ho detto, Catagiano non è più in strada, giudizio, dopo, e dopo si ne affuttendi. Altre cose in testa, c'ho la punta della boomerang mezzo bigiata da quegli ultimi 20 forti che ha fatto, cazzo, mi devo armare di buona volontà, scenderla e cercare di metterla a posto, però in questo momento proprio Ghana, la Ghana è proprio a riserva bionda. Giulia, ci sei? Oh, a me senti Gianni? Catani? Ui. Già sei scelto. Oh signor, vabbè dai, io me ne passo in quei retti, ci sentiamo alle prossime. Ehi, ciao Natali. Grazie, sono Giulio, allora. Gianni, ci sei? Hola, attenzione, canale 10. tutti? A quanto pare, Marco? Ah, ciao già, sei in macchina? Lo vedo dal segnale. K. No, perché sai, io sono andato a pigliare il caffè, Natalino doveva digerire, il profeta stava fumando, Carlo ci doveva mettere in abiti civili, eccetera, tutti sono venuti a sentare, dai. Ehi, dai, io mi sto muovendo adesso da casa, sono a prendere aereo. La modulazione è molto bella dalla macchina, però sai che era più bella di quella di casa? Quella di casa era molto, molto compatta, molto da canale 45, questa è limpida limpida, chiara chiara. Che radio è, si può dire? Sì, sì, 3980. Ah, roba bella, io credevo roba più soft, me. No, l'S980, dai. Allora già è quello, dai. Modulatore buono. Chiappa. Vabbè, o comunque oggi siamo stati abbastanza, un paio d'oretta non siamo stati, perché da quando ho chiamato io era entrato Natalino, poi subito dopo tu. Eh sì, un paio d'orette, già andava bene, dai. Ma ci porti anche di più, Sì, magari noi oggi abbiamo così un po' sventiato, siamo divertiti, magari se devi trovare un argomento di cui parlare è più arduo, dai, magari non si annoia anche di più. Vabbè, ma tante volte ci sta anche scherzare, farsi qualizzare, dai. Eia. Va bene, io sono qua così un po', al momento non sto facendo nulla. Così. Ciao, ti uccide Dave. Ma al fronte non c'è nulla, al momento no. Peccato, perché sabato c'è più, posso dire il termine, c'è più pelo in giro. Io sono invitato ad andare in un circolo, ma non lo so se ci va. Beh, però vedi gente, almeno ti distrai, eccetera. Così noi conosciamo, ci prendiamo un caffè, che ne so, il solito giro, solite persone, incontriamo poi. Però non è che esco tutte le sere, io mi burio già a uscire tutte le sere. Certe sere voglio starmi tranquillo, mi guardo un film dei miei, DVD, videocassetta, quello che c'è, insomma mi guardo, dai. Scappa, c'era un posto di blocco della stradale qua, vicino al chilometro, dai. Questo qua è passato sparato col BMW, ne manco in tempo hanno fatto a venire. Quelli poi se ci vedono col mic in mano non perdonano, mamma mia, è come avere il cellulare, dai. Tu pensa che in certi apparecchi, presidente, anche omologati, c'è il Vox, io potrei mettere quel microfonino con la pincetta che si fissa sul colletto della giacca, della camicia, e parlare a mani libere, però secondo me prende anche il rumore di fondo della macchina, cioè, siccome io spesso sto con i vetri aperti, prenderebbe tutto il rumore e quindi si attaccherebbe la portante. C'ha tre tarature, uno è la sensibilità del Vox, uno è la durata prima di staccare e una è la riduzione del rumore di fondo, però quella richiede un'accurata messa a punto, cioè se lo devi fare piano piano, fare un bel di prove e alla fine mi burio, tanto quando lo metto in macchina non ve nessuno, lo sai, una volta che metto il baracchino non c'è un'anima. È capitato anche a me, Marco, ma a me non mi vedono perché io ce l'ho sul ginocchio, parlo da sopra, mi ascolti bene? Benissimo. Ecco, io sto parlando, c'ho il microfono sul ginocchio, a me non me lo vedono il microfono. Io parlo, è come se avessi viva voce. Ah, buono. Perché non tutti i baracchini sono così. Per esempio, io una volta, mentre parlavo con voi, sì, su 10, avevo questo omologato, però non sapevo che anche come fai tu, mettendolo sulle ginocchia, si sentiva lo stesso. Cioè, c'è un microfono a condensatore che è molto sensibile e prendeva tutti i suoni dell'abitacolo, cioè non era necessario attaccarselo alla bocca, capito? Beh, quella è stata una sorpresa. Invece gli altri baracchini normali, tipo il presidente del 3009, quelli no, lì devi parlare vicino al mic. Guarda adesso, così è sul ginocchio e così è vicino alla bocca, molto cambia. No, no. ti dirò che cambia ben poco. È ottima anche quando parli lontano, buono, ottimo. Ma il mic è originale o è un amplificato? È un originale fatto da me, dai. È buono, anche di timbrica. Anche di timbrica. E io li amplificati anche, come vedi, li sto usando poco e niente, cioè li ho comprati per, non so, per emergenze, per la SSB vanno bene perché ti danno un po' di spinta in più che il mic originale non ha. E poi sai cos'è già? Quando hai tanti apparati, uno che ha la presa a 4 poli, l'altro che ce l'ha a 6 poli, l'altro che ha l'RG45, cioè o ti fai 10.000 adattatori, è un macello così. Ti spiego Marco, ti ho detto, questo qui è originale, ma fatto da me, nel senso che la parte esterna è originale, quella interna è lavorata da me, dai, capsula diversa, cavo diverso e tutto qua. Sì, te lo sei elaborato tu, dai, hai trovato anche una combinazione buona. E per curiosità, la capsula, di che mic era in origine? La capsula sicuramente è quella di un microfono Sadelta che ci avevo, di un microfono Sadelta che avevo distrutto. Via. Sai perché avevano fatto, non so in quale forum, una prova comparativa della capsula aspetta come si chiamava, il Lafayette DMC507, che aveva all'interno, la capsula era dentro un guscio mi pare metallico, invece quella del Midland classico, no? Microfono di ricambio Midland, come si chiama? DMC, vabbè, uguale di aspetto, era in una capsula, incapsulata in una specie di scatolina di plastica, aveva toni più medio-bassi che non a tutti piacevano, l'altro era più neutro. Purtroppo la Lafayette ha chiuso, la Marcucci ha chiuso ed era l'importatore Lafayette, adesso non si trovano più quei microfoni. E quando ho avuto la possibilità di comprarli, perché c'era un negozio che ancora li aveva, non li ho presi e adesso non si trovano più, perché era un eccellente microfono di ricambio per tutti gli apparati. Scappa. Io ne ho uno, Marco, Lafayette. Ma quello classico? Il 507? Scappa, sì, quello classico. Quello tienilo conto, e tienilo conto perché sui 3.900 va divinamente, e anche su tanti altri apparati. E la capsula è bella, bella grande anche, no? E mi ricordo questo particolare, è contenuta all'interno di una specie di gabbietta metallica, una specie di guscio metallico. Ok, vediamo se è rientrato qualcuno, chi altro c'è su 10? Sono rientrato io. Ehi, a capo Carlo, mi stavamo parlando di capsule e microfoni, Gianni e Maramobile stanno andando a prendere la compagna, non so come si può dire già. Dimmelo tu. La compagna, sì, la compagna, è giusto quello che hai detto. Ciao Carlo, direzione di punti. Ehi, a Forte Chiaro qua da me, Gianni, non c'è problema. Sì, prima eravamo in chiacchiera con Gianni Natalino, c'era Gianni l'altro e anche Luca c'era, poi io sono andato a mettermi un po' comodo e ho ripreso adesso, non sentivo perché ero in altre stanze, per cui ho ripreso adesso. Gianni, vai Marco, a te il mic. Io Carlo sto utilizzando, non so se è presente il 6.900, forse il 6.900 era un candidato anche che avevi preso in considerazione. Questo è un Alinco praticamente in scala ridotta, è un 6.900 in scala ridotta, cioè meno largo, meno alto, meno profondo, però c'ha gli stessi identici controlli, li hanno disposti un po' più attaccati l'uno all'altro, però ha le stesse funzioni. E ti dirò che sia in trasmissione e ricezione è veramente discreto. Sì, la Linco l'avevo vista, sì, il 6.900 lo stavo considerando io, poi ho visto il 9.900, la versione V4, che è questo che ho preso, che diciamo usciva un pochettino con qualche watt in più e con qualcosina in più, e allora ho optato per questo. Però la Linco, quello che hai tu, è un'ottima radio, bella compatta, l'ho guardata diverse volte, capito? Poi la scelta è caduta su questo e adesso diciamo che già sono soddisfatto, comunque già è una buona radio anche questa. Comunque il gommino dell'antenna si è già rotto. Il gommino, ma quale? Quello tra la base magnetica e la base dell'antenna? Ehi, a quello che va a contatto con la carrozzeria, tirandolo e ritirandolo se è partito. Vabbè, se lo aggiusto con silicone nero, me lo porto a casa e lo aggiusto. Ah, ma tu dici la cuffia in gomma, quella purtroppo dura poco, perché bene o male uno quando stacca l'antenna la tira un po' di lato, no? Fa praticamente, fa leva su un bordo, no? E lì si tagliuzza, perché è veramente sottile quella. E stavo studiando anche cose alternative a quella cuffia lì, ma roba che sia sottile, tipo i guanti di lattice, i guanti di nitrile, ma cosa che sia così, una membrana proprio. No, io gli ho messo, sai che cosa? Nell'altra antenna c'era rotta, anzi l'ho perso veramente quando mi è caduta, e gliel'ho fatto con la pelle della macchina, quella nera, gliel'ho ritagliata tutta quanta ben fatta, incollata, ed è di lusso, e andava bene, non si staccava. Anche quello non è male, non è male. Io mi ricordo che c'era anche un rivenditore che vendeva le cuffie in gomma, però non sono proprio identiche tra Midland e Sirio, c'è sempre qualche piccola tolleranza o differenza o bordino più o meno pronunciato, no? E quindi alla fine avevo lasciato perdere. Poi mi si era rotta la base Midland, lo sai, si era rotta. È colpa mia anche che stavo cercando di migliorarla, ma era già vecchia e c'erano le viti già andate, come dire, già c'ho quella nuova adesso, dai. Carlo, riprendi. È un peccato che non vendano appunto queste membrane per le antenne magnetiche, perché sono parti che si logorano, e perché sono esposte un po' alle intemperie, vento, caldo, sole, la carrozzeria d'estate poi si arroventa, poi di colpo si raffredda, per cui anche la plastica esposta in questo modo si rovina. E così come vendono le basi magnetiche, potevano vendere anche le membrane da sostituire. Invece mi sa che sono introvabili, perché io non è che le ho mai cercate, però immagino che non si trovino, anche perché dovrebbe essere anche abbastanza facile in base al diametro diciamo costruirle, anche perché sono fatte in gomma leggera, quindi il costo sarebbe stato anche forse troppo basso, e magari non c'è il tanto e non le mettono sul mercato. No Carlo, ci sono, le ho viste io, ci sono. Ci sono Gianni, ma dove le trovi? Su internet, sulla grossa distribuzione, Amazon, eBay, cose del genere? Mi pare che lo trovate su internet, ma non mi ricordo di sicuro se lo trovate su internet o dove, però le ho trovate, c'erano di diverse dimensioni. Infatti stavo per ordinarmela, poi ho detto me la costruisco, io faccio qui. Ebbene, già le cerco, perché anche la mia è un pochettino rotta e c'ha un paio di spacchi, però diciamo che non influisce molto e non ti rovina la carrozzeria, perché la metti piano e quindi aderisce, però vedo che si sta un pochettino rovinando appunto la membrana. E adesso mi controllo bene il diametro e provo ad ordinarla. Se mi dici qual è il tuo diametro, magari ne ordino due o tre, capito? E già fanno sempre comodo a tenerle, tanto penso che il costo sia anche abbastanza basso di quella roba lì. Sì, non costano nulla, Carlo, non costano niente. Io le ho viste, però non mi ricordo dove esattamente, è un po' di tempo fa che le ho viste, e c'erano di tutti i diametri, c'erano grandi, piccole, medie, di tutti i diametri. E comunque basta che tu lo metti, lo cerchi col Google, cerchi cuffiette per basi magnetiche e te lo dà. Bene mera, guarda quanto è di diametro la tua, e così magari più o meno dovrebbe essere quanto la mia, magari ne ordino un paio, anche quattro. Kappa. E adesso vedo, dai, quando c'ho il metro, non c'ho il metro, ho provato di mano adesso. Allora, Carlo, guarda, ho trovato qualcosa sia su Amazon sia su Radio Assistance, ha scritto Radio Assistance, qualcosa l'hanno. E poi anche su questo sito che io non conosco, Tech In col CH, e sono per la base da 15 che poi è 14, però ripeto, è tutto molto aleatorio, cioè sono basi marcate o PNI o Proxel di solito, no? Che però poi magari sulla base Sirio non vanno, non sono perfette, perciò io mi ero astenuto dal prenderle. E tanto ormai la mia base Midland si era rotta, quindi era inutile a comprare la cuffia. L'altra è nuova. E sto vedendo, una dice diametro 14, una 15. Poi magari vai a vedere, non è 14 ma 14 e mezzo, 13 e mezzo, insomma un po' così, dai. Ho capito, no, quel sito Technin, quello lo conosco, sono anche registrato perché avevo preso alcune cose, già sono affidabili, sì, e che mi voglio vedere bene il diametro della mia base, e poi essendo di materiale insomma plastico, magari elastico, per cui se la base è 15 e tu la prendi da 14 dovrebbe calzare lo stesso, capito? Perché un po' si dilata e quindi dovrebbe andare bene, invece facendo il contrario, magari prendendo un 15 su un 15 risulterebbe larga. È da provare, l'ideale sarebbe ordinarne una 14 e una 15 e così hai tutte e due le possibilità, perché credo che costino veramente poco, perché sono parti di gomma, quindi non diciamo già si sbolognano, poi magari non la uso io e capita un'altra base magnetica di qualcun altro, insomma, penso di ordinarla perché la mia si sta rovinando, però mi voglio prima controllare bene le dimensioni e poi domani mi faccio una ricerca su internet e vedo un po' cosa trovo. Sì, allora su Tech In, quello lì, €2,99, però qua non parla di spedizione, anche se sulla pagina di Google dice, di quel sito lì, €2,99 più €3,99 di spedizione, quindi 7 euro c'hai già la cuffia di ricambio. E qua dice, però vedi che sono contrastanti le informazioni, perché ti dice, allora, supporto, ti dico il testo così da cerchi, PNI, supporto in gomma per ML145/ML100, e quindi si presume che sia quella 14 o 15, no? Poi vai giù a vedere la descrizione e dice, il supporto in gomma ha un diametro di 120 mm, prima hanno detto una cosa e poi l'altra, vabbè. Compatibile, vabbè, con base, con attacco DV, con attacco PL, vabbè, quello non c'entra. È comunque interessante che... Ah, ho capito a cosa si riferisce. Si riferisce non alla base ML145, si riferisce all'antenna ML145, che infatti viene data con la base da 12 cm in dotazione. Ho capito. Sì, buono, questa è buona. Vedi, questa sarebbe andata bene sulla mia base Midland, che ormai è distrutta però. E l'ho buttata, credo anche. Ho capito, sì, io addirittura della base che uso ho ancora la scatola conservata, perché le scatole delle radio, delle attrezzature che servono, io non è che le butto, le conservo dentro un'altra scatolona che ho e metto tutto là dentro, perlomeno finché tengo le cose e conservo sempre le scatole, perché magari poi dico mi va di rivenderla, non la uso più, la rimetto nella sua scatola e magari la vendi anche meglio, perché c'è la scatola originale, capito? E quindi adesso, quando ho un attimo di tempo, scendo giù in garage e mi cerco la scatola dell'antenna, così mi guardo le caratteristiche, non devo stare neanche a misurare, perché lì c'è tutto, il diametro eccetera, è una Midland la mia base lo stesso, e non vorrei sbagliare, ma dovrebbe avere un 120 di diametro, credo, e adesso quando ho tempo lo guardo e penso di ordinarmelo un gommino nuovo. E poi adesso rilanciamo Gianni, vediamo dove è arrivato. Su Amazon ce n'è un'altra, ma è da 14 cm ed è per l'altra base Midland. Sì, per l'altra, quella da 14-15, insomma, più o meno. Adesso non mi ricordo le misure esatte. Gianni, sì, riprendi. Ehi, io sono fermo, dai, sono fermo che sto aspettando che esca, dai. Sono arrivato un po' prima e quindi sono sempre qui fermo. Scappa. Comunque sì, si trovano ancora, Qui ci sarebbe questo sito Radio Assistance, che è quella che avevo visto io. Qua dice diametro 15, 150 mm, 15 cm, però non so che per quale base sia. Quindi a me attualmente mi è rimasta la base da 16 cm, che è molto piatta, è della Sibiu.